A un segno della nuora, Madame de Cambremer accennò ad alzarsi e mi disse: «Dal momento che non volete sistemarvi a Féterne, perché non venite almeno a colazione uno di questi giorni, per esempio domani?» E nella sua benevolenza aggiunse per convincermi: «Ritroverete il conte di Cresnoy?» Che io non avevo affatto perduto per la semplice ragione che non lo conoscevo. E cominciava a farmi balenare davanti agli occhi altre tentazioni ancora, ma si interruppe di netto. Il primo presidente, che rientrando in albergo aveva saputo del suo arrivo, l'aveva subdolamente cercata dappertutto, poi attesa, e adesso, fingendo di incontrarla per caso, veniva a presentarle i suoi omaggi. Capii che Madame de Cambremer non intendeva farlo partecipe dell'invito a colazione testé rivoltomi. Eppure la conosceva da ben più tempo di me, essendo da anni fra gli assidui alle mattinée di Féterne, che avevo tanto invidiato durante il mio primo soggiorno a Balbec. Ma l'anzianità non è tutto per le persone del bel mondo, anzi riservano più volentieri le colazioni alle nuove conoscenze, che stimolano ancora la loro curiosità, soprattutto quando arrivano precedute da una raccomandazione prestigiosa e calda come quella di Saint-Loup. Madame de Cambremer stimò che il primo presidente non avesse sentito quanto m'aveva detto, ma gli rivolse, per placare i propri rimorsi, le parole più amabili. Nel sole che inondava all'orizzonte la costa dorata, solitamente invisibile, di Rivebelle, distinguemmo, separate appena dall'azzurrità luminosa, affioranti dalle acque rose e argentine impercettibili, le piccole campane che suonavano l'Angelus nei pressi di Féterne. «Anche questo è abbastanza Péléas», feci notare a Madame de Cambremer le Grandin. «Sapete a quale scena alludo? Volete che non lo sappia? Ma non ne ho la minima idea», proclamavano la sua voce e il suo viso, che non si modellavano su alcun ricordo, e il suo sorriso vago, senza punto d'appoggio. La marchesa madre non si capacitava che le campane arrivassero sin qui, e si alzò pensando all'ora. «Ma è vero», le dissi, «di solito da Balbec quella costa non si vede, e nemmeno la si sente. Evidentemente il tempo è cambiato e ha raddoppiato l'orizzonte, a meno che non siano venute a chiamarvi, perché vedo che vi fanno andar via. Suonano per annunciarvi che il pranzo è servito». Il primo presidente, poco sensibile alle campane, guardava furtivamente la diga, desolato di vederla quella sera così poco affollata. «Siete un vero poeta», mi disse Madame de Cambremer. «Vi sento così vibrante, così un artista. Venite, vi suonerò Chopin», aggiunse alzando le braccia con aria estasiata e pronunciando le parole con quella voce rauca che dava l'impressione di far rotolare dei ciottoli. Poi fu la volta della deglutizione della saliva e la vecchia signora asciugò istintivamente col fazzoletto la soffice spazzola dei suoi baffetti all'americana. Il primo presidente mi fece, senza volerlo, un grandissimo piacere afferrando il braccio della marchesa per accompagnarla alla carrozza, spinto da una certa dose di volgarità, di sfacciataggine e di gusto dell'ostentazione a un gesto che altri esiterebbero a compiere e che è lungi dal dispiacere in società. Vi era d'altronde, da tanti anni, ben più avvezzo di me. Pur benedicendolo, non osai imitarlo e mi incamminai al fianco di Madame de Cambremer le Grandin, che volle vedere quale libro avesse in mano. Al nome di Madame de Sévigné fece una smorfia e, ricorrendo a un aggettivo che aveva letto in certi giornali d'avanguardia, ma che, usato nella conversazione, volto al femminile e applicato a una scrittrice del Seicento faceva un effetto bizzarro, mi chiese: «La trovate davvero talentosa?» La marchesa diede al lacchè l'indirizzo d'un pasticcere dal quale doveva fermarsi prima di ripercorrere la strada, rosea di polvere nel tramonto, dove a intervalli, simile a groppe d'animali, si illividivano le scogliere. chiese al vecchio cocchiere se uno dei suoi cavalli, che era freddoloso, avesse avuto abbastanza caldo, se all'altro non facesse male lo zoccolo. «Vi scriverò per quello che dobbiamo combinare», mi disse a mezza voce. «Ho visto che parlavate di letteratura con mia nuora. È adorabile», aggiunse, sebbene non lo pensasse, ma aveva preso l'abitudine, conservata per bontà, di dirlo perché non si pensasse che suo figlio l'aveva sposata per denaro. «E poi», aggiunse in un ultimo biascicamento entusiastico, «è talmente artista!» Dopodiché salì in carrozza, dondolando la testa, sollevando il manico dell'ombrellino, e ripartì per le strade di Balbec, sovraccarica dei parametri del suo sacerdozio, come un vecchio vescovo in giro per cresime. «Vi ha invitato a colazione», mi disse severamente il primo presidente, quando, allontanatasi la vettura, tornai con le mie amiche. «Siamo in fredda. Trova che la trascuro. Diamine, non faccio certo il difficile io. Se c'è bisogno di me, sono sempre pronto a rispondere presente. Ma hanno preteso di accalappiarmi. E questo», aggiunse con tono scaltro e alzando il dito come chi distingue e argomenta, «questo no, non posso permetterlo. È un attentato alla libertà delle mie vacanze. Sono stato costretto a dire alto là. Sembrate in ottimi rapporti con lei. Quando avrete la mia età, vedrete che la società è ben poca cosa e rimpiangerete d'aver dato tanta importanza a queste sciocchezze. Bene, farò un giretto prima di pranzo. Addio, ragazzi!» gridò verso le quinte come se fosse già 50 passi lontano. Quando ebbi salutato Rosemonde e Giselle, queste s'accorsero con stupore che Albertine rimaneva ferma senza seguirle. «E allora, Albertine, cosa fai? Hai visto che ore sono?» «Andate pure», rispose con autorità. «Devo parlare con lui», aggiunse, indicandomi con espressione sottomessa. Rosemonde e Giselle mi guardarono, compenetrate d'un nuovo rispetto nei miei confronti. Godevo sentendo che, almeno per un momento, agli occhi stessi di Rosemonde e di Giselle, io ero per Albertine qualcosa di più importante delle amiche, dell'ora in cui si deve tornare a casa, e potevo persino condividere con lei gravi segreti dei quali era impossibile metterle a parte. «Non ci vediamo stasera?» «Non so, dipende da questo signore. Comunque a domani». «Saliamo in camera mia», le dissi quando le sue amiche si furono allontanate. Prendemmo l'ascensore. Di fronte al lift, Albertine rimase in silenzio. Essere abitualmente costretti a fare ricorso all'osservazione personale e alla deduzione per conoscere le piccole faccende dei signori, queste strane persone che parlano solo fra loro, sviluppa negli impiegati, come lift chiamava i domestici, una maggior capacità di divinazione che nei capi. Gli organi s'atrofizzano o diventano più forti o più sottili a seconda che il bisogno che si ha di loro cresca o diminuisca. Da quando esistono le ferrovie, la necessità di non perdere il treno ci ha abituati a tener conto dei minuti, mentre per gli antichi romani, che non solo avevano un'astronomia più sommaria ma anche un ritmo di vita meno pressante, la nozione non di minuti ma di ore fisse esisteva appena. Così il lift aveva capito e contava di riferire ai suoi colleghi che Albertine e io eravamo preoccupati. Tuttavia, ci parlò senza mai interrompersi perché mancava completamente di tatto. Ma vedevo che sul suo volto, invece dell'amicizia e della gioia di ospitarmi nel suo ascensore che vi si leggevano abitualmente, si dipingeva un'espressione d'abbattimento e di straordinaria inquietudine. Poiché ne ignoravo la causa, per cercare di distrarlo e benché Albertine mi preoccupasse più di lui, gli dissi che la signora che se n'era appena andata si chiamava Marchesa di Cambremer e non di Camembert. Al piano davanti al quale in quel momento stavamo passando, vidi una cameriera bruttissima, con un guanciale in mano, che mi salutò con rispetto, sperando in una mancia la mia partenza. Avrei voluto sapere se era la stessa che avevo tanto desiderata la sera del mio primo arrivo a Balbec, ma non mi riuscì mai di scoprirlo con certezza. Il lift mi giurò, con la sincerità tipica della maggior parte dei testimoni falsi, ma senza abbandonare la sua espressione disperata, che era proprio col nome di Camembert che la marchesa gli aveva chiesto d'annunciarla. In effetti, era del tutto naturale che avesse sentito il nome che conosceva già. Inoltre, poiché sulla nobiltà e la natura dei nomi con i quali si creano i titoli, possedeva le nozioni estremamente vaghe e condivise anche da molti che pure di professione non fanno il lift, gli era parso tanto più verosimile e niente affatto sorprendente che, data la fama universale di quel formaggio, si fosse pensato di trarre un marchesato da una così gloriosa rinomanza, a meno che la celebrità del formaggio non derivasse da quella del marchesato. Ciò nonostante, constatando che non volevo riconoscere d'essermi sbagliato e sapendo che i signori amano vedere assecondati i loro capricci più futili e accettate le loro menzogne più evidenti, mi promise, da buon domestico, che d'ora in poi avrebbe sempre detto Cambremer. È vero che nessun bottegaio della città o contadino dei dintorni, dove il nome e le figure dei Cambremer erano perfettamente conosciuti, avrebbe mai potuto commettere l'errore del lift. Ma il personale del Grand Hotel di Balbec non era del posto. Veniva direttamente, con tutti gli accessori, da Biarritz, Nizza e Monte Carlo, da dove una parte era stata dirottata a Deauville, un'altra a Dinard, mentre la terza era stata riservata a Balbec. Ma l'ansia dolorosa del lift continuava ad aumentare. Perché dimenticasse a quel modo di testimoniarmi la sua devozione con gli abituali sorrisi, bisognava che gli fosse capitata qualche disgrazia. Forse l'avevano mandato. Mi proposi in questo caso di adoperarmi per farlo restare in servizio, dato che il direttore mi aveva promesso di ratificare ogni mio desiderio concernente il personale. Potete fare quel che volete, lo rettifico sin d'ora. Improvvisamente, appena uscito dall'ascensore, capii lo sconforto, l'aria abbattuta del lift. A causa della presenza di Albertine, non gli avevo dato la moneta da 100 soldi che ero solito dargli salendo. E quell'imbecille, anziché rendersi conto che non volevo fare davanti ad altri l'esibizione delle mie mance, aveva cominciato a tremare, supponendo che fosse finita una volta per tutte, che non gli avrei mai più dato un centesimo. Immaginava che fossi rimasto a corto, come avrebbe detto il duca di Guermont, e questa supposizione non gli ispirava alcuna pietà per me, ma una tremenda egoistica delusione. Mi dissi che avevo meno torto di quanto non pensasse mia madre nella mia incapacità di non ridare ogni giorno la somma esagerata ma febbrilmente attesa che avevo elargita il giorno prima. Ma anche il significato attribuito fino a quel momento, e senza il minimo dubbio, all'abituale espressione di gioia del lift, nella quale non esitavo a scorgere un segno d'attaccamento, mi parve meno sicuro. Vedendo il lift sul punto di gettarsi nella sua disperazione dal quinto piano, mi chiedevo se, qualora le nostre condizioni sociali fossero diametralmente cambiate, per esempio in seguito a una rivoluzione, il lift, divenuto borghese, invece di manovrare gentilmente per me l'ascensore, non me ne avrebbe buttato fuori. E se non ci sia, in certi strati del popolo, più doppiezza che nella buona società, dove, certo, si riservano per la nostra assenza le maldicenze su di noi, ma dove non saremmo trattati in modo oltraggioso se incorressimo nella sventura. Non si può dire d'altronde che nell'albergo di Balbec il lift fosse la persona più interessata. Sotto questo aspetto, il personale si divideva in due categorie. Da una parte, quelli che facevano differenza fra un cliente e l'altro, più sensibili alla mancia ragionevole di un vecchio nobile, in grado peraltro di risparmiare loro un richiamo alle armi raccomandandoli al generale de Beautreuil, che alle elargizioni sconsiderate d'un avventuriero, il quale mostrava in tal modo una mancanza di buone maniere che solo in sua presenza veniva chiamata generosità. D'altra parte, quelli per cui nobiltà, intelligenza, celebrità, posizione sociale, educazione erano cose inesistenti, nascoste da una cifra. Per costoro c'era una sola gerarchia: quanto si possiede, o meglio, quanto si dà. Lo stesso Aimé, forse, nonostante le sue pretese, in virtù dei molti alberghi in cui aveva servito, d'un grande sapere mondano, apparteneva a questa categoria. Tutt'al più aggiungeva una sfumatura sociale, un'infarinatura di conoscenza delle famiglie, a quel genere d'apprezzamento, dicendo per esempio della principessa di Luxembourg: «C'è sotto molto denaro?» Il punto interrogativo mirava a informarsi o a controllare definitivamente le informazioni già assunte prima di procurare a un cliente uno chef per Parigi oppure di riservargli un tavolo a sinistra entrando con vista sul mare a Balbec. Malgrado ciò, pur essendo tutt'altro che privo di venalità, non l'avrebbe esibita con la sciocca disperazione del lift, il quale d'altronde, con la sua ingenuità, semplificava forse le cose. La comodità d'un grande albergo o di una casa, come un tempo era quella di Rachel, è che senza bisogno di intermediari, la vista d'un biglietto da 100 franchi, a maggior ragione da 1000, anche se dato per quella volta a un altro, fa sì che sulla faccia fino allora impenetrabile d'un impiegato o d'una donna nascano un sorriso, delle offerte. Al contrario, in politica, nei rapporti fra due amanti, troppe cose si frappongono fra il denaro e la docilità. Tante che anche coloro cui il denaro finisce col risvegliare il sorriso sono spesso incapaci di seguire il processo interno che collega le due cose. Si credono, sono più delicati. E le conversazioni per bene vengono depurate dei «so quel che mi resta da fare, domani mi troveranno all'obitorio». È per questo che nella buona società si incontrano pochi romanzieri, pochi poeti, pochi insomma di quegli esseri sublimi che parlano appunto di ciò che non si deve dire.